Da questo momento, la nostra nave si impegnerà a debellare i satelliti olografici terrestri. Mettiamoci in azione per informare l'intero universo della verità. Yama, tu dovrai dire alla gente qual è il vero aspetto della Terra. Salve a tutti e bentornati a una nuova puntata grazie a Radio Big World sull'Arcadia. Come avrete notato in tanti, io prendo tanti spezzoni da film o da show televisivi, ma principalmente, come il nome del programma che ho scelto, Arcadia, è stato ripreso da Capitan Harlock. Capitan Harlock è a nome, a capo dell'Arcadia, e combatte per la libertà. Io non mi definisco Capitan Harlock, però combatto per la libertà e per la giustizia, per tirare fuori la verità. Combattere contro ciò che mi lega. Lo farò. E combatto contro ciò che mi lega. Quindi è un caso anche questo. Voglio parlare oggi di delle persone che combattono per difendere ciò che le lega. Dato che vengo criticato tanto, cosa ho fatto? Ho detto, vediamo di chiedere risposte a fonti ufficiali italiane. E cosa è successo? Allora, è successo un po' un po' il finimondo, perché ovviamente c'è quello che prende in giro, invece di chiedersi ma perché questo fa queste domande, e soprattutto perché questa agenzia spaziale non gli dà risposte, ma lo prende in giro. Allora, io sono serio su questo argomento, come ho già detto, sono veramente serio. Chi è che non è serio su questo argomento? Le agenzie spaziali, sia italiane che del mondo, perché nonostante ci siano ormai milioni di persone, perché siamo arrivati a milioni di persone che non credono che siamo stati sulla Luna, non credono alla NASA. Quindi perché io italiano devo credere all'ESA, che è l'agenzia spaziale europea, va bene, e alle agenzie che lavorano per tali truffatori, perché per me sono truffatori. Non voglio fare speculazione, quindi se qualcuno si sente offeso mi dispiace per lui, però purtroppo io sono stato ultimamente in questi giorni a litigare letteralmente, a cercare di capire, a farmi dare delle risposte da queste agenzie, e l'unica cosa che ho ricevuto è stato un allontanamento dalla pagina, in modo da non poter più commentare o scrivere qualcosa al riguardo sull'argomento. Cosa gli ho chiesto a queste agenzie spaziali? A queste agenzie spaziali gli ho chiesto di mostrarmi o di darmi comunque dei link, un qualcosa che mi possa convincere che sono davvero andati nello spazio, perché c'è chi si vanta di essere alla decima, quindicesima, undicesima missione spaziale con successo, se ne vanta di aver rinnovato il contratto con le agenzie spaziali europee, però nonostante abbiano mandato un sacco di satelliti nello spazio, e comunque non c'è modo. Non mi hanno mai dato una prova, anzi, mi hanno solo dato dei collegamenti al sito ufficiale, e ci sono le persone, non l'agenzia stessa o chi lavora per l'agenzia, che mi ha dato una risposta, ma mi rispondevano le persone che ci mettono mi piace, che gli fanno i complimenti per gli obiettivi raggiunti. Questa agenzia, le agenzie spaziali italiane, non sono in grado di rispondere a una semplice domanda o di dare delle prove tangibili, dei fatti? No, cosa riescono a fare? Riescono a darti un video in computer grafica dove vedi la Terra che gira dallo spazio, ok? Ma è tutto computer grafica. Chi critica, come ho già detto, è perché non si vuole informare. C'è chi mi dice che non gliene frega niente, ma allora perché critichi? se non te ne frega niente, fai la tua strada. Io parlo per chi gli importa. Per chi gli importa del mondo su cui viviamo, per chi gli importa chi è che decide determinate cose della nostra vita. È così, mi dispiace. Io non voglio litigare con nessuno. Non voglio argomentare anni su cose stupide. Perché il solo fatto dell'acqua, l'acqua rimane lì, trova sempre il suo livello e rimane lì. Quindi le agenzie spaziali non mi hanno dato nessuna risposta. Chi vuole su internet, andate a cercare, provate anche voi a chiedere le stesse cose alle agenzie spaziali italiane. Chiedete ai piloti, chiedete, c'è chi mi tira fuori la forza di Corioli. La forza di Corioli, perdonatemi, la forza di Corioli, se esistesse veramente, per chi non è a conoscenza, nonostante sia laureato, la forza di Corioli è quella forza di cui tutti dovremmo dover tener conto quando tipo o spariamo o ci alziamo in volo. Perché? Perché quando, secondo la forza di Corioli, che in tanti, ma in tanti, sono veramente tanti convinti e ci credono, quando alzi i piedi da terra, la terra sotto di te si muove, e quindi quando spari o vai tipo un aereo, la terra sotto di te si muove. Ma questo, io sinceramente, mi sembra assurdo che qualcuno creda a una cosa del genere. Ho piacere a vedere che tante persone in Italia si sono rese conto di questa bugia, però mi dispiace veramente tanto per quelli che si sono veramente, hanno il cervello fritto con queste menzogne. Io non parlo per partito preso, perché ho fatto le mie ricerche, posso aver detto un sacco di cavolate, ma ci sono tante domande e tante coincidenze che meritano delle risposte. E queste risposte non vengono date. Perché non vengono date le risposte? Dove sono le immagini reali, non in computer grafica, senza lente a occhio di pesce, della Terra? Perché in alcune immagini della Terra, viste dallo spazio, da questi famosi satelliti che girano a queste velocità assurde e resistono a temperature assurde fuori nello spazio, si vede addirittura, rendetevene conto, si vede le stelle attraverso la Terra in alcune immagini. Io non ho parole. Un ologramma! Allora questa Terra era un'illusione! Ma che diavolo significa? Quindi cos'altro possiamo dire di chi difende il globo? Chi difende il globo a volte mi ha tirato fuori come esempio della curvatura il ponte di Verrazzano. Il ponte di Verrazzano è in America, è su Wiki, lo potete cercare, andate su Wiki e cercate ponte di Verrazzano e troverete, è brevissimo, c'è scritto, è il ponte, il primo ponte più lungo fatto, per cui è stata calcolata anche la curvatura della Terra. Quanto mai sarà lungo questo ponte per calcolare la curvatura della Terra? 1,5 km. È triste. 1,5 km la curvatura, quando ci sono, possiamo vedere per centinaia e centinaia di chilometri, grazie ai palloni, e vediamo che è tutto piatto. E c'è chi mi dice che viene calcolata la curvatura per un ponte di 1,5 km. Scusatemi, ma è assurdo. Quindi queste agenzie spaziali non danno risposte, ma ti bloccano o ti prendono in giro, come farebbe una persona qualunque che trovi per la strada. Lo trovo ridicolo che io, da cittadino, provo a informarmi da fonti ufficiali e queste fonti ufficiali si trovano in difficoltà o addirittura ti allontanano perché non sanno darti una risposta, perché ci passano male di fronte alle 1000 persone che gli hanno messo mi piace nella pagina, a chi gli manda soldi. Quindi rendiamoci conto che ci stanno rubando un sacco di soldi per darci roba in computer grafica. Questo è il mio parere, potete non credermi, quindi vi invito, oltre ad andare sul sito della NASA ufficiale, scaricare le immagini e provare per voi stessi che è tutto finto, di fare anche delle domande. Io lo dico sempre, non bisogna smettere di chiedersi il perché delle cose. Andate nei social, chiedete, non chiedete perché c'è gente che crede la Terra sia piatta, perché vi daranno la classica risposta: sono dei complottisti. Ma come ho detto, è tutto collegato. Nel momento in cui iniziate a farvi delle domande, le domande giuste, è tutto collegato, vi tornerà tutto, vi esploderà il cervello quando vi renderete conto delle menzogne a cui siamo sottoposti tutti i giorni, a quello che ci viene detto che non è reale. Quel pianeta azzurro era soltanto un'immagine virtuale. Capitano! Festeggiamo lanci missilistici spaziali quando invece possiamo provare che non è vero niente. Cosa ti danno? Ti fanno vedere un missile lanciato, come succede nei Thunderbirds, programma televisivo vecchissimo fatto con la tecnica di stop motion, la stop motion animation mi sembra si chiama, è una tecnica che viene utilizzata tuttora per fare cartoni. E poi ti fanno vedere questo missile e poi dopo ti danno immagini in computer grafica fatte ai computer, che addirittura sono meglio nei videogiochi rispetto a quelle che ti danno loro. A cosa bisogna credere? Io vi dico sempre, fidatevi dei vostri sensi. Se i vostri sensi vi dicono che c'è qualcosa che non va, bisogna scavare, bisogna capire perché il nostro corpo ci cerca di dirci che c'è qualcosa che non va. Io mi ho detto, non ci guadagno niente, oltre che a passare da lunatico, non ci guadagno assolutamente niente a dire queste cose. Io non cerco né fama né fortuna. Io, come ho detto, mi sono reso conto che ci prendono in giro e cerco di far vedere queste cose alle persone. Che interesse ho? A discapito di quello che me ne esce, mi dice, a me non me ne frega niente che sia piatta o tonda, e non capisco perché tu ci senti così tanto. Io parlo, come ho detto, per quelle persone che si chiedono il perché. Ci sono persone che muoiono di fame quando si spendono miliardi e su miliardi su miliardi su miliardi per cose finte. Allora, viene detto tante cose, la guerra, i terroristi, la difficoltà che c'è ora nel lavoro, la crisi. Ma c'è davvero la crisi? La crisi c'è davvero, ma è stata provocata. Perché quando le persone hanno i soldi per andare avanti, quando le persone hanno i soldi, l'economia va. Quando glieli togli, ci hanno portato a essere in questo stato. Se pensate a tutti i soldi che vengono dati alle agenzie spaziali di tutto il mondo, non dico solo della NASA, a parte la NASA prende miliardi su miliardi su miliardi, poi se ci vogliamo mettere anche le agenzie europee, le agenzie cinesi, quello russe, quello che volete, ma ve ne rendete conto che la fame nel mondo non ci sarebbe più? Non ci sarebbe il problema degli immigrati? Non ci sarebbe il problema del lavoro, non ci sarebbe il problema delle pensioni. E qui torno al discorso che ci mentono, i politici ci mentono. Magari, come ho detto all'inizio di questo programma, alcuni sono veramente all'oscuro e sono completamente immersi in questo mondo di bugie. Anche i politici stessi o sanno, però continuano a recitare una parte. Perché io, quando vedo alcuni politici nei social o in televisione, io vedo degli attori che recitano la parte, cioè la parte del cattivo, la parte del razzista, la parte del super buono, la parte del naturalista, in modo da accontentare tutti. Ognuno c'ha cosa credere, c'ha per chi ti fare, come una squadra, no? Io tifo per quello razzista, io tifo per quello naturalista, io tifo per quello è contro le ingiustizie. No, sono tutti attori che sono lì per darci un qualcosa a ognuno, quindi è per dare a ognuno un qualcosa per accontentare un po' tutti. In questo modo cosa succede? Succede che io, che magari sono per il naturalista, sono contro quello l'etico e discuto contro quello che è per che è razzista o comunque fa propaganda per fare confusione. Come dio sempre, è per metterci uno contro, per farci fare la guerra tra noi, invece che essere uniti ci fanno fare la guerra tra noi. Quindi c'è il complottista pazzo, c'è il quello fogato per la politica, c'è quello che non gli interessa né lo spazio né la politica, ma i che ha? Gli è stato dato il calcio. Oh, il calcio, quanto è bello il calcio, eh? Vero? Però anche queste sono cose magari ne riparleremo. Provo a combattere, sono qui per questo. Grazie di avermi ascoltato, grazie per essere stati con noi, grazie a Radio Big World e alla prossima. Da Gabriele e dall'Arcadia è tutto. Ciao. L'umanità è invecchiata. Anche se ci si evolve, non si ottiene niente e non cambia niente. Ma allora, perché quell'uomo? Perché quell'uomo vuole ostinatamente andare ancora avanti?